Abbasso il finestrino per sentire l'odore del mare. La strada giusta per tornare indietro non passa di qua. Accelero e disegno traiettorie senza sapere bene dove portano e perché, cercando di godere delle cose che si muovono con me. Tutte le volte che mi guarderò allo specchio, tutte le volte che mi lancerò nel vuoto, tutte le volte che mi inventerò il futuro, tutte le volte che ne sentirò il bisogno, ti troverò. Non ho bisogno di altre dimensioni, so valutare bene tutto quello che mi dai. Mi allontano solo un attimo a guardare l'effetto che mi fa. Le abitudini son dolci come le illusioni e povero chi non ne ha. Sarà vero oppure no l'arcobaleno, che differenza c'è? Tutte le volte